GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli. Firenze dunque palcoscenico da questa mattina per una serie di iniziative che portano al Festival dell'Europa, il Festival dell'Europa di Firenze, naturalmente una delle molte iniziative che in questi giorni di fatto sbocciano nel continente. Ma noi restiamo su Firenze e ci colleghiamo con Roberto Castaldi, che è ricercatore alla Scuola di Sant'Anna, direttore del Centro Studi Documentazioni e Formazioni sull'Unione Europea. Castaldi, buongiorno. Dunque, qual è il menù di queste giornate fiorentine? È molto ricco. Oggi si è aperto con una riunione straordinaria del Consiglio regionale dedicata all'Europa e prosegue il pomeriggio con un convegno sui costi della non Europa organizzato dalla Fondazione Spolini. Domani ci sarà un grande convegno dell'Università di Firenze, l'Europa in bilico, che affronterà i temi politici ed economici. Il 9 maggio il convegno su The State of the Union col Presidente Barroso e il Presidente Schulz della Commissione del Parlamento Europeo, e il momento culminante sarà sabato 11 maggio con la manifestazione Gli Stati Uniti d'Europa per superare la crisi, che sarà il momento culminante in cui tutte le istanze di una settimana di dibattiti, di seminari, di convegni porteranno in piazza i fiorentini a chiedere più Europa per superare la crisi. Grazie a Roberto Castaldi, dunque, da Firenze. Lo ricordiamo in diretta. Roberto Castaldi è il direttore Centro Studi Documentazione e Formazioni sull'Unione Europea. E a proposito di Europa, bisogna aprirle ancora le porte dell'Unione, e in particolare bisogna aprirle alla Turchia. Il Parlamento Europeo ha votato sì pochi giorni fa a portare avanti il dibattito. Noi diamo voce ai perché di questa decisione. Sentiamo Roberto Gualtieri, europarlamentare del PD, al microfono di Valeria De Rosa. Vi sono forti ragioni che spingono per questa soluzione, perché il peso geopolitico che la Turchia darebbe all'Unione Europea sarebbe sicuramente notevole. Un paese come la Turchia, anche per la sua composizione demografica, per il fatto di essere un ponte tra l'Occidente e il mondo musulmano, potrebbe dare molto all'Unione Europea. Ma d'altra parte i problemi che rendono problematica questa adesione sono altrettanto seri, perché obiettivamente nelle condizioni attuali del meccanismo di governo dell'Unione Europea un paese demograficamente forte e importante come la Turchia, e che naturalmente non sarebbe pronto e disponibile a entrare nel nocciolo duro dell'integrazione, cioè l'Eurozona, sicuramente rischierebbe in qualche modo di diluire ulteriormente l'assetto delle istituzioni dell'Unione Europea, rendendo quindi più difficile quell'approfondimento, cioè quel processo verso una vera Europa federale, che è l'altro grande direttrice che l'Europa si è data. Certo, l'attuale situazione così di stallo non aiuta nessuno. Noi abbiamo il dovere di dare alla Turchia un messaggio chiaro, ma inevitabilmente questo messaggio chiaro glielo possiamo dare quanto più facciamo chiarezza su dove vogliamo che vada l'Unione Europea. Bruxelles non esclude che l'obbligo di porre l'origine degli alimenti sull'etichetta, una delle grandi battaglie che da anni porta avanti l'Italia in Europa, possa essere estesa dalla carne di manzo fresca a quella di maiale o la carne trasformata che sia macinata o hamburger. Prenderemo una decisione nel corso dell'anno, ha fatto sapere il commissario UE alla salute oggi a Bruxelles, rispondendo alle domande di un cronista. Bene, con questo abbiamo chiuso. Roberto Scaltretti in regia, Gigi Donelli al microfono. GR Europa torna domani a partire dalle 15 e poco più. Buon pomeriggio a tutti. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.